gli feci presente, comunque, che la madre di Bloch non esisteva più e che, per quanto riguardava il padre, c'era da chiedersi fino a che punto l'avrebbe divertito partecipare a uno spettacolo nel quale poteva anche correre il rischio di rimetterci un occhio. Il signor di Charlieu parve contrariato. «Ecco», osservò, «una donna che ha fatto malissimo a morire. Quanto al rischio per gli occhi, la sinagoga è per l'appunto cieca, non riesce a distinguere la verità del Vangelo. E poi, riflettete, in questo momento in cui gli ebrei, poveracci, son lì tutti tremanti davanti all'ottusa furia dei cristiani, quale onore per loro vedere un uomo come me degnarsi di assistere ai loro giochi e prenderci gusto». In quel preciso istante passò il signor Bloch, il quale evidentemente andava incontro a suo figlio. Non ci aveva visti, ma io proposi a Charlieu di presentarglielo. Non mi sarei mai aspettato di suscitare nel mio interlocutore una reazione così violenta. «Presentarmelo! Ma dovete avere una ben scarsa nozione dei valori. Non è così facile fare la mia conoscenza. Nella fattispecie, la cosa sarebbe doppiamente sconveniente a causa della giovane età del presentatore e dell'indegnità del presentato. Al massimo, se un giorno mi si offrisse lo spettacolo asiatico al quale accennavo, potrei rivolgere a quell'orribile individuo qualche frase benevola, ma a condizione che si sia lasciato abbondantemente pestare da suo figlio. Potrei persino, in tal caso, esprimere la mia soddisfazione». Il signor Bloch, d'altronde, non si curava minimamente di noi due. Stava indirizzando grandi saluti a Madame Sazerat, che mostrava di gradirli. Ne ero stupefatto, perché un tempo, a Combré, si era indignata, tanto era antisemita, che i miei genitori avessero ricevuto il giovane Bloch. Ma, da pochi giorni, il dreyfusismo, simile a una corrente d'aria, aveva fatto volare il signor Bloch sino a lei. Il padre del mio amico la trovava affascinante ed era anzi singolarmente sedotto dall'antisemitismo di lei che, secondo lui, deponeva a favore della sincerità della sua fede e dell'autenticità delle sue opinioni dreyfusiste e che, inoltre, valorizzava la visita che la signora l'aveva autorizzato a farle. Non l'aveva nemmeno ferito il fatto che, sbadatamente, Madame Sazerat avesse esclamato in sua presenza: «Il signor Drumont ha la pretesa di mettere i revisionisti in un unico mazzo con i protestanti e gli ebrei. Graziosa davvero questa promiscuità!» «Sai, Bernard», aveva orgogliosamente annunciato il signor Bloch tornando a casa al signor Nissim Bernard, «c'è del pregiudizio, sai, in quella donna». Ma Nissim Bernard, senza rispondergli, aveva alzato al cielo uno sguardo angelico. Rattristato dalle sventure degli ebrei, memore delle sue amicizie cristiane, sempre più manierato e ricercato, per ragioni che si vedranno più avanti, con il passare degli anni, egli aveva ormai l'aspetto di una larva preraffaellita sulla quale fossero assurdamente spuntati dei peli, come capelli imprigionati in un opale. «Tutto questo affare Dreyfus», riprese il barone, che non allentava la presa sul mio braccio, «ha un solo inconveniente, quello di distruggere la società. Non dico la buona società. Oh, è un pezzo che la società non merita più questo epiteto lusinghiero. Con l'afflusso di signori e signori del maiale, del maialetto e della maialesca. Insomma, di gente sconosciuta che mi trovo fra i piedi, perfino in casa delle mie cugine, perché appartengono alla Lega che, ne so, della Patrie Française antisemita. Come se un'opinione politica desse diritto a una qualifica sociale». Questa frivolezza apparentava ancor più il barone de Charlieu alla duchessa di Guermantes. Gli feci notare la somiglianza. Poiché aveva l'aria di non credere che la conoscessi, gli ricordai la serata all'Opéra, durante la quale mi era parso che lui volesse evitarmi. Replicò che non mi aveva assolutamente visto e con tanta energia che avrei finito col credergli se, poco dopo, un piccolo incidente non mi avesse convinto che Charlieu, forse per eccesso di superbia, preferiva non essere visto in mia compagnia. «Torniamo a voi», mi disse, «e ai progetti che vi concernono. Esiste fra certi uomini, signore, una massoneria di cui non posso parlarvi, ma che in questo momento annovera nelle proprie file 4 sovrani europei. Ora, i consiglieri di uno di loro, che è l'imperatore di Germania, vorrebbero guarirlo dalla sua chimera. È una cosa gravissima che può condurci alla guerra». Sì, signore, proprio così. Conoscerete la storia dell'uomo che credeva di tenere imprigionata in una bottiglia la principessa della Cina? Era una follia. Ne fu guarito, ma dal momento in cui smise d'essere folle, diventò cretino. Ci sono malattie dalle quali non bisogna cercare di guarire, perché esse sole ci preservano da malattie più gravi. Un mio cugino aveva un disturbo allo stomaco, non riusciva a digerire. I più dotti specialisti delle malattie di stomaco lo curarono senza alcun risultato. Io lo portai da un certo medico, un personaggio assai curioso, fra parentesi, sul quale ci sarebbe parecchio da dire. Costui intuì subito che si trattava di una malattia nervosa, persuase il paziente, gli prescrisse di mangiare senza alcun timore tutto ciò di cui aveva voglia e che, di fatto, avrebbe sempre ben tollerato. Ma mio cugino aveva anche la nefrite. Quello che lo stomaco aveva preso a digerire perfettamente, i reni, alla fine, non riuscirono più ad eliminarlo e mio cugino, anziché raggiungere la vecchiaia con una malattia di stomaco immaginaria che lo obbligasse a seguire una dieta, morì a 40 anni, con lo stomaco guarito, ma con i reni distrutti. Potendo godere di uno straordinario anticipo sulla vostra stessa vita, voi sarete forse, chissà, ciò che sarebbe potuto essere qualche uomo eminente del passato se un genio benigno gli avesse rivelato, nel mezzo di un'umanità che le ignorava, le leggi del vapore e dell'elettricità. Non siate tanto sciocco da rifiutare per discrezione. Capite bene che, se vi rendo un grande servizio, mi figuro che voi me ne renderete uno non meno grande. È un pezzo che la gente del bel mondo ha smesso di interessarmi. Non ho più che una passione: cercare di riscattare gli errori della mia vita, facendo sì che un'anima ancora vergine e capace di lasciarsi infiammare dalla virtù possa approfittare di quello che so. Ah, ho avuto grandi dispiaceri, signore, e un giorno forse ve ne parlerò. Ho perduto una moglie che era la creatura più bella, più nobile e più perfetta che un uomo possa sognare. I miei giovani parenti sono, non dirò indegni, ma incapaci di ricevere l'eredità morale di cui vi sto parlando. Chissà che non siate voi la persona a cui io possa affidarla e di cui potrò dirigere e innalzare la vita. La mia, per di più, ne trarrebbe vantaggio. Forse, informandovi sulle grandi questioni diplomatiche, mi ci riappassionerei io stesso e mi metterei finalmente a fare delle cose interessanti nelle quali sareste, per così dire, mio socio. Ma prima di esserne certi, bisognerebbe che ci vedessimo spesso, molto spesso. Ogni giorno. Avrei voluto approfittare delle insperate, fervide disposizioni dimostratemi dal signor di Charlieu per chiedergli se non potesse farmi incontrare con sua cognata. Ma proprio allora il mio braccio fu violentemente spostato da una specie di scossa elettrica. Charlieu aveva precipitosamente disciolto il suo braccio dal mio, sebbene, mentre parlava, facesse scorrere lo sguardo in ogni direzione. Solo all'ultimo momento aveva visto il signor d'Argencure che sbucava da una via trasversale. Scorgendoci, Argencure parve seccato. Mi lanciò uno sguardo diffidente, quasi lo stesso sguardo destinato a un essere di un'altra razza che Madame de Guermantes aveva riservato a Bloch, e tentò di scantonare. ma si sarebbe detto che Charlieu ci tenesse a mostrargli che non cercava affatto di sfuggire alla sua vista, giacché lo chiamò per dirgli qualcosa di assolutamente insignificante. E nel timore, forse, che Argenteuil non mi riconoscesse, gli disse che ero un grande amico di Madame de Villeparisis, della duchessa di Guermantes, di Robert de Saint-Leu, che lui stesso, Charlieu, era un vecchio amico di mia nonna, felice di riversare sul nipote un po' della simpatia che costei gli ispirava. Ciò nonostante, notai che il signor d'Argenteuil, sebbene gli fossi stato appena presentato in casa di Madame de Villeparisis e Charlieu l'avesse lungamente parlato della mia famiglia, fu più freddo con me di quanto non lo fosse stato un'ora prima. E tale si confermò poi per molto tempo ogni volta che gli capitava di incontrarmi. Mi osservò quella sera con una curiosità del tutto priva di simpatia e parve addirittura che dovesse vincere una certa ripugnanza quando, lasciandoci, mi tese la mano, non senza esitazione, e ritraendola al più presto. «Sono mortificato di questo incontro», mi disse il signor di Charlieu. «Argenteuil, nato bene ma educato male, diplomatico men che mediocre, marito pessimo e infedele, subdolo come un impostore da commedia, è uno di quegli uomini capaci di capire, ma capacissimi di distruggere le cose veramente grandi. Spero che la nostra amicizia, se un giorno debba nascere, sarà tale, e che voi mi accorderete l'onore di tenerla, come farò io, al riparo dai calci di asini come lui, i quali, per insipienza, goffaggine o malvagità, mandano in frantumi quel che sembrava fatto per durare. Purtroppo è di questa pasta che è fatta la maggior parte della gente di mondo. La duchessa di Guermantes sembra molto intelligente. Si parlava poco fa della possibilità di una guerra. Si sarebbe detto che sull'argomento disponesse di nozioni specifiche. «Oh, non ne ha la minima nozione!» replicò seccamente il signor di Charlieu. «Le donne, come parecchi uomini d'altronde, non capiscono nulla delle cose a cui mi riferivo. Mia cognata è una simpatica persona che si immagina di vivere ancora ai tempi dei romanzi di Balzac, quando le donne influivano sulla politica. Frequentare lei, come del resto qualsiasi esponente dell'alta società, potrebbe esservi oggi solo di pregiudizio. Ed è proprio una delle prime cose che stavo per dirvi quando quell'imbecille mi ha interrotto. Il primo sacrificio che dovete offrirmi, ne esigerò in proporzione a quanto vi darò, è di non andare in società. Questo pomeriggio, vedendovi a quella ridicola riunione, ho sofferto per voi. Mi obietterete che c'ero anch'io. Ma per me non si trattava di una riunione mondana, bensì di un obbligo di famiglia. Più avanti, quando sarete un uomo arrivato, se fare un salto in società vi diverte, potrete farlo, forse senza inconvenienti. In quel caso non occorre che vi dica quanto potrò esservi utile. Il sesamo di Palazzo Guermantes e di tutti quelli di cui vale la pena che vi si spalanchi la porta, non sta che a me pronunciarlo. Giudicherò io, e mi riservo di scegliere il momento. Per ora siete un catecumeno. La vostra presenza lassù aveva qualcosa di scandaloso. Prima di tutto, bisogna evitare l'indecenza.